Europa 24. L'euro non è debole, è più allineato ai suoi fondamentali ed ora è più competitivo, lo indica il segretario generale dell'OCSE Angel Gurria in una audizione davanti alla Commissione Economica del Parlamento Europeo, dove ricorda che l'ultimo rapporto OCSE vede segnali incoraggianti per la crescita anche grazie ai prezzi del petrolio e ai bassi tassi di interesse. La situazione in Europa, aggiunge, appare leggermente più brillante con previsioni di più 1,4% nel 2015 e più 2% nel 2016. Mentre proseguono le difficili trattative tra la Grecia e i suoi creditori in vista di una proroga del memorandum economico, il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Angel Gurria, ha approfittato di un'audizione parlamentare qui a Bruxelles per mettere sotto pressione il governo greco. L'uomo politico messicano ha ricordato che la situazione economica greca ha le sue radici in una classe politica che ha mentito sullo stato di salute delle finanze pubbliche e ha sottolineato come i paesi che rendono la propria economia più moderna riescono a crescere di più, migliorando lo stile di vita della sua popolazione e lo stato di salute dei suoi conti pubblici. Venerdì scorso il governo greco ha inviato ai suoi creditori una lista di misure economiche, oggetto attualmente di un acceso negoziato. Dalle riforme economiche dipendono nuovi aiuti per 7,2 miliardi di euro in un paese minacciato da una grave stretta finanziaria. La presa di posizione di Gurria, segretario generale dell'OCSE dal 2006, è sintomatica dell'isolamento in cui si trova la Grecia a 5 anni dal primo programma di aiuti economici. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Continua a calare, seppur lentamente, il tasso di disoccupazione nell'eurozona. Secondo Eurostat, a febbraio è all'11,3%, mentre a gennaio era 11,4% e nel febbraio 2014 era ad 11,8%. Brutto il dato che riguarda l'Italia, il tasso di disoccupazione nel nostro paese a febbraio è stato del 12,7%, più alto della media dell'eurozona. La disoccupazione italiana è la sesta più alta dell'Unione Europea dopo Grecia, Spagna, Ungheria, Cipro e Portogallo. Per quanto riguarda invece l'inflazione, resta in territorio negativo ma risale il tasso di inflazione annuale nell'eurozona a marzo. Secondo la stima flash di Eurostat è a meno 0,1%, quando a febbraio era meno 0,3%. L'Unione Europea si è impegnata a donare quasi 1,1 miliardi di euro in aiuti umanitari alla Siria durante la conferenza dei donatori in Kuwait, raddoppiando così la somma promossa lo scorso anno. Le esigenze sono schiaccianti ed è necessario uno straordinario sforzo dall'ampia comunità dei donatori per mobilitare fondi significativi, ha spiegato il commissario europeo agli aiuti umanitari Christos Stylianides in una nota. L'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali invita i paesi a fare di più per l'integrazione dei disabili. Vittime troppo spesso di discriminazione e isolamento, così appaiono i disabili in un rapporto pubblicato dall'Agenzia Europea per i diritti fondamentali, l'osservatorio comunitario con sede a Vienna che tutela le categorie a rischio di emarginazione e intolleranza. I paesi membri sono stati richiamati a fare di più nella lotta contro i crimini d'odio verso chi soffre di disabilità intellettuali o problemi mentali. Crimini che si riflettono in modo negativo anche sulla collettività, alimentando i pregiudizi e impedendo a queste persone una piena integrazione nella società. La relazione dell'Agenzia invita a varare misure a livello nazionale ed europeo, aggiungendo nella legislazione sui crimini d'odio anche il tema della disabilità, finora poco discusso. Nel frattempo, la situazione sarà monitorata con regolarità e le vittime incoraggiate a raccontare le proprie esperienze. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.